Eravamo così belli, o almeno ci sembrava, ed un giorno normale era sempre un giorno speciale, con la riga di lato e sogni oltre l'aldilà. Facevamo le conte, i pensieri nel dettato, e le notti a studiare, canto e matematica, con le spalle scoperte, la musica di mamma e papà. Roma, il sistema solare, cuore chiuso nella pelle. Cosa, cos'è che ci fa sentire ancora sulle stelle? Ma è chiaro che siamo noi. Così dopo mezzanotte e ci ridiamo ancora e ci piangiamo ancora qua. Mannaggia la Befana, ma quanto ti ho voluto bene, te ne voglio sempre di più. Se chiudo gli occhi vorrei crollarti addosso. Roma, le fontane scheggiate, Alberto, soldi nelle tempie. Cosa, cos'è che ci fa sentire polvere di stelle? Ma è chiaro che siamo noi. Oh, oh, oh. Ma è chiaro che siamo i biscotti inzuppati nel latte, con i discorsi dopo mezzanotte e ci ridiamo ancora. Ci piangiamo ancora qua, e non c'è un'altra cosa più vera e più bella di questa. Fa culo tutto, questi sono i nostri anni. I nostri anni, questi sono i nostri anni. I nostri anni, questi sono i nostri anni. I nostri anni, sono i nostri anni. I nostri anni, sono i nostri biscotti inzuppati nel latte, con i discorsi dopo mezzanotte, e ci ridiamo ancora, e ci piangiamo ancora qua. E non c'è un'altra cosa più vera e più bella di questa. Fanculo tutto, questi sono i nostri anni, i nostri anni.